GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Lorena Venier, l'infermiera di 61 anni che ha ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro di 35 anni, dovrà essere sottoposta a perizia psichiatrica. Ne è convinto l'avvocato difensore Giovanni De Nardo, che in queste ore incontrerà la sua assistita nella sezione femminile del carcere del Coroneo a Trieste. E sempre oggi dovrebbe essere conferito l'incarico per l'autopsia. Incidente stradale in mattinata a Udine, ricoverato in gravi condizioni un motociclista che con il suo mezzo a un incrocio si è scontrato con una macchina facendo un volo di diversi metri. Una delle zone peggiori del comune di Muggia, l'ex discarica con sversamenti nel terreno di ogni tipo, sta per rinascere come polo artigianale e industriale sostenibile. 35 ettari rilevati dall'autorità portuale nel 2023 per 60 milioni di euro. I lavori procedono come da cronoprogramma e potrebbero terminare nel 2026. Gli incentivi della regione per riammodernare o rottamare le imbarcazioni di privati e operatori. Per il presidente di Assonautica Pordenone Udine, in questo modo si aiuta il settore e si riconosce la sua importanza anche a livello economico e sociale. Passo avanti a Pordenone verso la realizzazione della nuova casa di riposo nel quartiere di Villanova. Potrebbe essere è stato sottoscritto pochi giorni fa l'accordo di programma fra comune e azienda per i servizi alla persona Umberto I, valore dell'opera oltre 20 milioni, la residenza per anziani sorgerà accanto alla scuola dell'infanzia Ada Negri. Si è spento a 68 anni Marco Bonamico, leggenda del basket italiano. A fine carriera tra il 93 e il 95 aveva giocato a Udine. Nel giornale radio il ricordo di Lorenzo Bettarini, ex cestista e allenatore friulano, suo compagno di squadra, la Libertas Udine. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza. Lorena Venier dovrà essere sottoposta a perizia psichiatrica, e quanto sostiene l'avvocato difensore della donna che a Gemona ha ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro di 35 anni. Il legale vedrà la donna in queste ore nel carcere di Trieste e nelle stesse ore la procura di Udine assegnerà l'incarico per l'autopsia, a cui parteciperà un perito della difesa di Maylin, la compagna della vittima. Meno probabile che venga indicato anche un consulente dalla difesa della mamma. La ricostruzione fatta è quanto mai precisa e c'è piena assunzione di responsabilità, ha fatto sapere il suo legale, l'avvocato Giovanni De Nardo. L'esame autoptico sul corpo di Alessandro Venier chiarirà quali sostanze sono state usate da mamma e compagna per stordire il giovane e poi ucciderlo. Il conferimento dell'incarico avverrà oggi, ma i punti da chiarire in questo omicidio di Gemona del Friuli restano molti altri. Da fonti investigative sembra che non sia imminente, ma in futuro neppure escluso, il coinvolgimento dei RIS di Parma. Nella villetta dove il corpo dell'uomo è stato fatto a pezzi, lasciato per 5 giorni immerso nella calce viva, non sarebbero state trovate evidenti tracce di sangue. La casa, hanno detto, è stata ben lavata. Intanto emergono altri passaggi nella lunga e dettagliata confessione del delitto fatta dalla mamma di Alessandro Lorena, mentre Maili Castro Monsalvo, che secondo l'accusa sarebbe l'istigatrice e esecutrice materiale del delitto, è ancora in silenzio. Ha ammesso le proprie responsabilità al giorno del ritrovamento del cadavere, ma poi più nulla. È stata Maili a chiamare il 112, ha detto Lorena. Il piano era quello di attendere per poter far sparire i resti, ma lei ha avuto una crisi. Momenti di tensione quella mattina sembrano confermati dai lividi nelle braccia che la giovane ha ancora evidenti. È l'unica cosa che l'avvocato di Maylin, Francesco De Carlo, ci conferma. Sì, la ragazza ha riferito che a procurarle quelle ferite è stata la signora Lorena, ma poi, anche con noi, ha concluso il legale, si è chiusa nel silenzio assoluto. Lorena, invece, avrebbe detto ai PM il piano che entrambe avevano in mente. Pensavamo di poter far tutto sole. Una volta che il corpo si sarebbe consumato nella calce, lo avremmo abbandonato in montagna. Queste le parole. Ad esclusione quindi di un eventuale coinvolgimento di terzi nell'omicidio. L'avvocato di Lorena Venier, Giovanni De Nardo, starebbe valutando per lei la richiesta di una perizia psichiatrica. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 33 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Udine dopo essere stato sbalzato dalla sella della propria motocicletta a seguito dell'impatto con una vettura. L'incidente è accaduto attorno alle 8 del mattino a Udine in via Romagna, all'angolo con via Illiria. Per cause al vaglio della polizia locale, i due veicoli sono entrati in collisione. Dopo l'impatto con l'auto, il Centauro ha fatto un volo di molti metri. La centrale operativa regionale della Sores ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Il rianimatore ha stabilizzato il paziente sul posto prima di condurlo in condizioni critiche e prognosi riservata al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Lavori pubblici, sta procedendo come da cronoprogramma il cantiere che sta realizzando una vasta area logistica per l'autorità portuale nel territorio comunale di Muggia, a poca distanza dal pastificio Barilla. Notevole anche l'impegno riguardante il recupero ambientale dell'area, dove in passato erano stati depositati rifiuti. Siamo andati sul posto a vedere a che punto è l'opera. Il terreno è talmente inquinato che dove è impossibile fare un'opera di bonifica asportando il materiale. Quindi con le sostanze volatili non era neanche accessibile dal punto di vista del passaggio delle persone. E quindi questo è un bene, assolutamente un bene, che in questo momento ci siano stati i soldi e le risorse per poter rimettere in piedi con una bonifica permanente della zona. A che punto del progetto siamo adesso? Il cronoprogramma è rispettato e per cui si pensa che la fine dei lavori possa essere già per il prossimo anno, con l'infrastrutturazione di tutta la zona, quindi la predisposizione anche in parte di un parcheggio per tir, ma che è un tombamento della parte più inquinata, laddove i tir non saranno, come qualcuno vuole far credere, a servizio retroportuale, ma saranno semplicemente a servizio della zona industriale questa e di quella che è già consolidata qui in via delle Saline. Si è parlato, quando è stato rilevato il lotto, che ci saranno delle attività industriali, ma saranno delle attività artigianali e industriali green, lo conferma? Esatto, questo è l'accordo tra il Comune di Muggia e l'autorità portuale e il COSELAG, per cui questo sarà assolutamente un paletto indissolubile per quanto riguarda la tipologia di attività, quindi ambientalmente sostenibile, anche perché ci sono gli abitanti da una parte di Santa Barbara e dall'altra parte di Aquilinia, di Stramare, e per cui questo dovrà essere rispettato come vocazione, diciamo, industriale artigianale. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Abbiamo sentito la voce di Paolo Polidori, sindaco di Muggia. Sulla realizzazione del tunnel sotto il passo di Monte Croce Carnico, infrastruttura strategica per il futuro della Carnia, oggi per iniziativa della Camera di Commercio di Pordenone Udine si è tenuto un tavolo di confronto tra istituzioni, mondo economico e rappresentanti del territorio, coordinato dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Il tunnel non è un sogno, ma una necessità concreta, ha ribadito Mazzolini, il quale ha annunciato che nei prossimi mesi seguiranno gli incontri operativi per giungere ad atti concreti. All'inizio di agosto la Regione ha approvato un nuovo bando per il 2025 per la nautica. Comprende un bonus destinato al refitting, cioè la ristrutturazione e l'ammodernamento, o alla demolizione di barche da diporto vecchie di oltre 20 anni e possedute da almeno 2. La misura si rivolge a privati, imprese, associazioni ed enti pubblici. Ne abbiamo parlato col presidente di Assonautica Pordenone Udine, Carlo Conti. Sono dei contributi a fondo perduto per il rinnovamento del parco nautico regionale. Il rinnovamento significa refitting dell'imbarcazione, miglioramento della qualità dell'imbarcazione, della sicurezza, di tutti quegli aspetti che normalmente sono anche trascurati, soprattutto dai piccoli armatori. Ci sono diversi livelli di finanziamento, c'è il finanziamento per il privato, c'è il finanziamento per l'operatore economico e poi ci sono i finanziamenti che sono destinati all'infrastruttura, quindi ai gestori di marine, d'assene, porti barca, prodi, eccetera. Quanto ammonta? Arriva a 3.000 euro fino a 5 metri, per poi aumentare di 500 euro per ogni metro di lunghezza in più, per un massimo di 15.000 euro. Poi ci sono 8.000 euro di incentivi per la rottamazione, poi dopo c'è il contributo di 100.000 euro per gli operatori turistici, per l'acquisto di imbarcazioni per operatori turistici, cioè trasporti, turistici e quant'altro, e poi ci sono i contributi per il rinnovamento delle infrastrutture marine d'Arsine e Prodi, che sono fino a 100.000 euro. È un intervento che può essere utile? Assolutamente sì. È utile per due aspetti. Uno, il primo, che è quello materiale, più diretto, che è quello che spero che ci porti ad avere un parco nautico più moderno, più efficiente, più, diciamo, curato e meglio mantenuto. E questo qui è, diciamo, l'aspetto più diretto. L'aspetto invece non meno rilevante in termini di importanza, ma di visibilità, è il riconoscimento del ruolo che un settore come quello della nautica del porto ha a livello economico e sociale nella nostra regione. Scuola: dall'anno prossimo, con il 6 in condotta alle superiori, scatta la sospensione del giudizio e arriva il tema di cittadinanza. Sarà necessario superare questo compito per non dover ripetere l'anno. Con il 5 invece scatta la bocciatura automatica, mentre alle medie il voto in condotta concorrerà all'eventuale bocciatura. La riforma vuole rispondere anche così ad un aumento dei casi di maleducazione o addirittura di violenza giovanile a scuola nei confronti di docenti, personale e di altri studenti, come attestano i dati sul voto in condotta raccolti dall'ufficio scolastico regionale. Il dato che più allarma è l'abbassamento dell'età in cui si manifestano i comportamenti a rischio tra gli studenti a scuola, indisciplinati già dalle medie nella fascia della preadolescenza tra gli 11 e i 14 anni. Secondo quanto rilevato dall'ufficio scolastico regionale, quest'anno il 4,46% dei quasi 30.000 studenti della scuola secondaria di primo grado della regione ha avuto il 6 in condotta, 1.323 alunni concentrati per lo più in provincia di Pordenone, che ne conta 593, seguita da Udine, 456, e da Trieste e Gorizia, entrambe sopra i 130. Preoccupano anche i 45 studenti che hanno ricevuto il 5 in condotta. Sommati a quanti hanno avuto 6, fanno quasi il 5% del totale degli allievi delle medie del Friuli Venezia Giulia, e il trend si conferma fino alle prime classi delle superiori, dove si concentra più del 50% dei 426 studenti della regione che quest'anno hanno ricevuto il 6 in condotta. I numeri alle superiori comunque risultano più contenuti: l'1,15% del totale dei circa 38.000 studenti della regione è uscito col 6 o il 5 in condotta, solo 10 col 5. In provincia di Udine il maggior numero di studenti delle superiori col 6, 164, seguono Pordenone, Trieste e Gorizia. Guardando agli indirizzi, a contarne di più sono gli istituti tecnici, gli ISIS e le scuole professionali, 60 i licei. Con la riforma ora in vigore, da quest'anno alle medie il voto in condotta concorre all'eventuale bocciatura, mentre alle superiori il 6 comporterà la sospensione del giudizio con l'obbligo di redigere entro fine agosto un elaborato su temi di cittadinanza attiva, mentre il 5 porterà la bocciatura automatica in tutte le classi a prescindere dai voti nelle altre materie. Per la direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale Beltrame è un monito per quei genitori, purtroppo sempre più numerosi, che non sanno guidare i figli nell'accettazione delle regole, delle limitazioni e dei divieti necessari per la convivenza sociale e per una crescita responsabile che consenta loro di diventare cittadini consapevoli. Questi genitori, rimarca Beltrame, dovrebbero sapere che gli insegnanti in questa regione valutano con serietà e autorevolezza i comportamenti maleducati degli alunni e che il lassismo educativo non può più essere tollerato. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Approvato a Gorizia il progetto di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola di infanzia Furlani nel quartiere di Stracis. L'intervento rientra nel piano comunale per la sicurezza degli edifici scolastici. Il costo complessivo è di 2 milioni e 100 mila euro, finanziati dal Ministero dell'Istruzione e da un mutuo comunale. Lo stabile, costruito tra il 1954 e il 1967, sarà aggiornato alle normative antisismiche ed energetiche previste. Rinforzi strutturali, isolamento termico e cappotto, nuovi serramenti e il miglioramento dell'accessibilità. Saranno sostituiti impianti elettrici, termici, idrici e sanitari con soluzioni ad alta efficienza. L'impianto fotovoltaico sarà aggiornato con accumulatori per l'autoconsumo. I lavori inizieranno dopo la fine del prossimo anno scolastico. A Pordenone è stato presentato il progetto di una nuova casa di riposo per anziani. Sorgerà a Villanova e sarà realizzata grazie all'intervento di Comune e Azienda per i Servizi alla Persona Umberto I. La struttura fornirà servizi che potranno essere utilizzati anche dagli abitanti del quartiere. Passo avanti verso la realizzazione della nuova casa di riposo di Pordenone nel quartiere di Villanova. Nei giorni scorsi è stato infatti sottoscritto l'accordo di programma fra Comune di Pordenone e ASP Umberto I per l'affidamento ed esecuzione dei lavori. Soggetto attuatore degli interventi sarà infatti l'ASP. Il Comune provvederà invece alla realizzazione della strada secondaria di accesso da Via Nuova di Corva. Il quadro economico dell'opera è di oltre 20 milioni di euro fra fondi regionali e fondi propri di Comune e ASP. La residenza per anziani sorgerà appunto a Villanova in via Grazia Deledda, accanto alla scuola dell'infanzia Ada Negri. L'edificio si svilupperà su un'area di 7.500 metri quadrati, avrà 120 posti, 4 reparti speciali per persone non autosufficienti, 30 stanze per persone affette da Alzheimer, camere singole e doppie, tutte dotate di servizi, ambulatori e varie attività e servizi aperti e frequentabili anche da chi vive nel quartiere. La scorsa settimana la nuova casa di riposo è stata anche al centro di un incontro fra il sindaco Alessandro Basso e l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Il tema è quello del futuro di Casa Serena una volta che la nuova struttura sarà completata. L'immobile di Via Revedole potrebbe infatti essere ristrutturato per rispondere alle esigenze delle persone con forme di autosufficienza parziale o non autosufficienza lieve in un'ottica di abitare possibile. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La Biotest, azienda friulana del gruppo Luci, ne è amministratore unico Adriano Luci. Con oltre 30 anni di esperienza nel trattamento delle emissioni della qualità dell'aria, ha annunciato l'ingresso nel capitale della startup veneta B0 System, specializzata in tecnologie per la sanificazione di superfici e ambienti chiusi. Con questa operazione la Biotest amplia il suo raggio d'azione nel campo della sicurezza ambientale, integrando soluzioni contro virus e batteri, incluso il SARS-CoV-2. La sinergia tra le due realtà proporrà soluzioni integrate per rispondere a esigenze di luoghi ad alta vulnerabilità come ospedali, RSA, scuole e luoghi di lavoro. Addio ad una delle leggende del basket italiano. È morto a 68 anni Marco Bonamico, alla grande che ha fatto la storia della pallacanestro bolognese, ma anche della nazionale, campione d'Europa nel 1983 e argento olimpico nel 1980. E fra i tanti club in cui aveva militato c'era stato anche Udine. Nato a Genova e soprannominato il Marin, Bonamico, alto 2,01 m, iniziò la sua carriera nella Virtus Bologna nella stagione 75-76, per passare l'anno dopo alla storica rivale, la Fortitudo Bologna. Chiuse la carriera appunto a Udine in Serie A2 tra il 93 e il 95. Aveva disputato 15 campionate in Serie A1 e 4 di A2, vincendo con la Virtus 2 scudetti. Era stato anche commentatore tecnico per la Rai. Sentiamo un ricordo da Lorenzo Bettarini, suo compagno di squadra alla Libertas Udine. La notizia mi ha colto veramente di sorpresa. Sapevo che aveva qualche piccolo problema, che era entrato in ospedale 15 giorni fa per fare degli accertamenti, ma chi si aspettava una notizia del genere? Eravamo tutti e due, ahimè, a fine carriera. Il ricordo di Marco non è solo un ricordo come giocatore, è una persona veramente speciale. Io l'ho messo tra quelli che definisco dei supereroi, come anche Marco Solfrini, che anche lui ahimè non c'è più. Fisico prepotente per quegli anni, atleta, e ancora abbiamo giocato assieme, che lui, io avevo 35 anni, lui 34, quindi tutti e due un po', non dico bolliti, ma non proprio di freschezza atletica. E lui, quando c'era un avversario forte, arrivava all'allenatore, alla squadra, diceva datmelo a me, perché insomma era sempre un fighter, un combattente. Mi ricordo che voleva prendersi cura lui appunto di tutti gli avversari americani o non che fossero, gli avversari più temibili. Avevamo anche un buon rapporto al di fuori del campo, del spogliatoio, a tal punto che mi ha lasciato un regalo che ancora conservo gelosamente, un machete di Marine della guerra in americani, della guerra in Vietnam, che forse aveva trovato in qualche mercatino a Bologna. Me lo regalò. E siccome lui ha definito il Marin, mi disse: questo è il mio biglietto da visita. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:49:45, diamo uno sguardo al tempo con cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 23 gradi, mare poco mosso con temperatura di 22 gradi e mezzo, a Gorizia 25 gradi e mezzo, Udine 24 gradi e mezzo, Pordenone 23, a Tolmezzo 21 gradi, a Treviso 19, Forin di Sopra 18 gradi e mezzo, Piancavallo e Sappada 17 gradi, in montagna sullo Zoncolan 14 gradi e sull'Ussari 12 gradi e mezzo, sulla costa Legnano 24 gradi, a Grado 23, la temperatura del mare è di 23 gradi e mezzo in entrambe le località. Ed ecco le previsioni, oggi pomeriggio tempo stabile con temperature in aumento, cielo in genere poco nuvoloso con velature ad alta quota, variabile sui monti per formazione di cumuli sparsi, sulla costa probabile cielo sereno, venti di brezza. Uno sguardo a domani, cielo sereno, poco nuvoloso con temperature massime in aumento, venti di brezza e di notte possibile qualche nebbia in pianura. La cantante attrice tedesca Ute Lemper sarà stasera a San Vito al Tagliamento per un concerto intitolato Da Berlino a Broadway. Insieme a lei sul palco tre orchestre, l'Accademia d'Archi Arrigoni, l'Accademia Musicale Naonis e l'Orchestra da Camera di Pordenone, diretti da Walter Sivilotti e l'accompagnamento del pianista tedesco jazz Vanna Gierig. In programma le canzoni più celebri del suo ampio repertorio, da Kurt Weill, di cui state ascoltando la canzone September Song, e anche Bertolt Brecht, Marlene Dietrich, George Gershwin, Edith Piaf e anche brani dei più importanti musical americani. Appuntamento alle 21 in Piazza del Popolo. And I have lost one tooth, and I'll walk a little late. Per i concerti in Basilica di Aquileia, la rassegna musicale sdoppia le sue sedi, coinvolgendo, oltre alla Basilica Patriarcale di Aquileia, anche la Basilica di Sant'Eufemia a Grado. E proprio qui stasera si terrà il concerto con l'Orchestra d'Archi Blanc, caratterizzata dal simbolo del bianco, considerato emblema di luce e di purezza, e guidata dal violoncellista e compositore Riccardo Pes. Il programma spazia da Bach a Vivaldi fino a opere contemporanee di Roy Harris e dello stesso Pes alle 20:45. Notte folla, senza luna e un silenzio. Legnano Sabbiadoro entra nel vivo dell'estate musicale con il concerto di Francesco Renga, impegnato nel tour Angelo 20, con cui festeggia i 20 anni appunto del suo brano Angelo, con cui vinse a Sanremo nel 2005 e che è stato ascoltando in sottofondo. Il concerto del cantante, cresciuto a Brescia ma nato a Udine, sarà un viaggio musicale nei momenti più significativi della sua carriera, con le sue canzoni di maggior successo tra ballate e musiche pop rock. L'inizio è alle 21:30 alla Beach Arena, l'ingresso è gratuito. Prosegue l'Aquileia Film Festival con la proiezione di Marco, l'ultima bandiera di Marco Fabbro, docufilm che ricostruisce le vicende del nobile Marco, il signore di Moruzzo, l'ultimo alfiere del patriarcato di Aquileia che sfidò la Repubblica di Venezia. Una storia rimasta segreta per 500 anni. Prima del film si discuterà col regista Marco Fabbro, Eros e William Cisilino, presidente e direttore dell'Arlef, e con Claudio Zorzenon. Alle 21 in Piazza Capitolo. Per la rassegna pordenonese Cinema sotto le stelle, stasera la proiezione di Monte Corno, pareva che io fossi in aria, documentario di Luca Cococcetta dedicato alla prima salita documentata al Corno Grande del Gran Sasso, realizzata il 19 agosto del 1573 da Francesco De Marchi. Alla serata, in collaborazione con il CAE di Pordenone, parteciperà anche Roberto Mantovani, giornalista, storico dell'alpinismo e protagonista del film. Inizio alle 21 dall'Arena Largo San Giorgio e in caso di pioggia all'interno di Cinema Zero. Sono le 12:54 minuti e 35 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Mauro Ciccarelli e da Marco Ferrito. La collaborazione in redazione è firmata da Valentina Veneruso. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui nostri profili social e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. A tutti voi grazie della cortese attenzione. Da Dario Ronzoni e da Antonio Cajazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.